le 7 e una manciata di secondi. Questa è Rock FM. Che radio, ragazzi. Qui c'è l'Ariele negli studini, negli studioli. Studini era brutto, al buio. Illuminati solo da un lampione crepuscolare. E ultimamente resiste poco, eh. Stiamo tornando. Hai capito? Sta tornando la bella stagione. Al grido stamane di Oh Pora Italia, andiamo a iniziare la puntata 189. Ringrazio Walt, bar qua sotto, che mi dia sempre queste ispirazioni. Oh Pora Italia. Dai che gli affamo. Pane, burro e rock and roll. È venerdì. La tua colazione roll. È il 22 di febbraio. Pane, burro e rock and roll. Ovviamente è il 2008, l'anno della svolta. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Pronti per l'ultima puntata della settimana, appuntamento ricco soprattutto per i Beatles in italiano, eh sì. Quest'oggi abbiamo in programma di ritorno dall'URSS, dallo storico White Album dei Fab Four, vecchi dei USSR, come non l'avete mai sentita. La nostra rubrica Cosa volevano dirci? La rubrica che vanta innumerevoli tentativi di imitazione, tutti mediamente riusciti, come ricorda anche il maestro Roberto Frecantoni, che tra qualche minuto dovrebbe arrivare per, come al solito, leggerci l'almanacco del 22 di febbraio. Un saluto veloce, sparuto anche al nostro tecnico Spadino. Messo sempre male di mattina Spadino. Qualcuno cerca anche di difenderlo tramite le linee di contatto, ma è veramente una causa persa, ragazzi. Diamo inizio alla puntata con del buon rock and roll. Oh, Pora Italia. Si dice anche dalle vostre parti così? Oh, Pora Italia. Friends will be friends. Quale migliore inizio? E Queen. You can't. Anche voi in macchina, giù il finestrino e cantatela al vostro vicino. Siamo tutti amici in tangenziale a quest'ora. Eh? Rap till the end. Ah no, Friends Will Be Friends, bravo. Gli amici saranno amici, brano che dedico al mio unico, ovvero grande amico, compagno di vita, il detentore dei miei segreti più intimi, Mr. Trombetta. Sì, sono un ragazzo con pochi amici io, perché sono cattivo. Non è vero, eh? Sa, dai che gli do le coordinate ai nostri amici e alle nostre amiche. Per i primini, quelli che da poco si sono sintonizzati su Rock FM, che non conoscono la nostra frequenza, che non conoscono questa trasmissione che si chiama Pane, Burro e Rock and Roll, magari erano lì che smanettavano sulla loro autoradio perché sono stufi di sentire un'altra frequenza. È un bel programmino questo qui, ci sono tante rubriche e siamo un po' fatti così, come dicevano il cartone animato, quello del corpo umano, no? Siamo un po' fatti così. Bisognerebbe trovarla quella canzoncina, Spadino, perché ci sta bene a noi. Siamo fatti così. Un po' Mattacchielli, capito? E c'è Roberto Fricantoni degli Schiantos, l'inventore del rock demenziale. E con cosa posso ingolosirli? Ho detto, faremo le traduzioni cantate. Forse ci saranno i provini per diventare musicisti rock con la bocca. È comunque un programma che sta sul pezzo, perché abbiamo l'almanacco, i compleanni, cioè a livello giornalistico dico, magari uno strano va a avere, insomma ce n'è di roba da sentire. Restate un po' con noi, dateci questa chance, non ve ne pentirete. Nel caso vogliate anche farci sapere di che gruppo d'ascolto fate parte, a che gruppo d'ascolto appartenete, un 335-100-7777 potrebbe interessarvi, perché è il nostro numero di SMS, una casella di posta elettronica alla quale potete inviare messaggi, richieste di calendari o spam, semplicemente ariel@radiorockfm.com. Garanzia di qualità di questo programma, la ottima musica, perché quella è di Rock FM, capito? Non ci possiamo mettere. Al massimo Spadino accende il microfono che canto, ma lì chiudete un occhio, dai. Sentite qua. Baby. Buona giornata Roberto Fricantoni, anche buona, in questo duro venerdì. Buonissima giornata anche al DJ Ariele. Stupisce. E a tutti i radioascoltatori e anche soprattutto alle radioascoltatrici, ecco, ma anche i radioascoltatori, ma soprattutto alle radioascoltatrici. Venerdì 22 febbraio da affrontare assieme con una bella poesia. Sì. Quella si sta come d'autunno? No, era un'altra. Insomma, è molto naufragarme dolce in quest'almanacco. No. Vuoi dire la sua? Sì. Perché potremmo anche citare quelle degli altri a volte. Sì, ma non è la stessa cosa, perché io, vede, mi sono focalizzato sull'argomento di oggi. Fantastico, l'almanacco. Vorrei prego stupirla con l'almanacco. Venerdì cambia la sostanza. Quella che piglia. Si avvicina la fine della sofferenza. Con la brioche che contorce nella panza. E l'almanacco, la tua vera dipendenza. E allora, oltre a un sacco di altre boiate che si spara, caro Frick, iniziamo con l'almanacco del giorno. Oggi sono cattivo, la piglio cattiva oggi. No, lo dica, io mi nutro male, sono un appassionato di trash food, ma solo perché mangio nella spazzatura, non perché mangio cibo. Avevamo notato anche pare questa che nella spazzatura si trovano delle cose deliziose. Deliziosissime. 22 febbraio 1632. Medaglia. Iniziamo con una bella notizia. Galileo Galilei scrisse il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Avrei potuto scriverla anch'io. Ah, per quello che invidia lei. Ma no. Ma lei ha scritto Non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti. La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Lei una volta toccato il fondo, non puoi che risalire. A me capita di cominciare a scavare. Mia figlia vuole sposare uno dei Luna Pop, non importa quale. Esatto. Abbiamo altri? Ma tanti. No, ma devo dire che lei mi ha, DJ Ariele, mi ha riequilibrato la situazione. Oh, non sarà Galileo Galilei, ma è sempre Fricantoni. Sto molto meglio. 1956, il 22 di febbraio, un certo Elvis Presley entra in classifica per la prima volta con Heartbreak Hotel. Ah, che bella notizia. Mentre nel 1987, brutta notizia, in un ospedale di New York muore, questa sì, muore all'età di 58 anni Andy Warhol, il padre, l'inventore della pop art ed il protagonista della scena artistica newyorkese. Per una semplicissima operazione alla cistifellea. Esatto. Porratin. Esatto, poverino. Peccato. Poverino. Protestiamo formalmente con l'ospedale, e contro la cistifellea. Sa, il problema è che non avevano il dottor House. Ci sarà. Se la sarebbe cavata. Può essere. Chiudiamo con un'altra invece bella notizia. 1997, a Roslin, scienziati annunciano il successo della prima clonazione di un mammifero da cellule di un individuo adulto, la famosa pecora Dolly, che citiamo sempre. La nostra redazione ha una passione sfrenata per le pecore clonate. Devo dire che anche a me non dispiace. Un pensierino ce lo fa spesso. Vediamo di clonarne un'altra. Insomma, vecchio zozzone. Io credo che avrebbe un grande successo in Sardegna questa clonazione delle pecore. No, ma nel senso buono, nel senso buono. Poi questa la togliamo. La togliamo tanto, questa che è meglio. I've gotten more than I- vari servizi offerti dalla nostra colazione rock, c'è anche quello della strombazzata. Sembra benaugurante, sembra porti bene. Il saluto del nostro mister Trombetta che andiamo prontamente a fare per il nostro buon Andrea, per la patentata 143 Elena, che quest'oggi mi deve fare una presentazione importante in azienda. Oh, che orgoglio di aver ascoltato, cioè, siamo orgogliosi di avere ascoltatori così avanti, come per esempio invece Ara che scrive: finalmente sono tornata dopo 3 settimane di ascesi sui monti a studiare senza radio per l'esame di oggi allegata a strombazzata. La sua domanda è: com'è andato il carnevale rock? No, Ara, sei veramente indietro però, non sai cosa è successo? Dai, il raduno surrealista di Celle Ligure è andato bene. Vi segnalo, come spesso e volentieri dovrei fare, il nostro spazio su internet, dove stiamo iniziando a scavare una nicchia di pane, burro e rock and roll, e stiamo iniziando anche a pubblicare immagini interessanti. C'è sicuramente per Ara, che era interessata a sapere cosa è successo a Celle Ligure, lo trovi su myspace.com/paneburrofm. Non solo, devo ricordare, avvisare gli amici patentati fiorentini, cioè chi ha ricevuto la patente davvero rocker alla Flog lo scorso appuntamento. Abbiamo pubblicato anche il primo scatto, ne abbiamo altri che stiamo mettendo a posto, poi li pubblicheremo, con tutti voi che fate vedere la patente, molto carino, andate a vedervi, myspace.com/paneburrofm. È anche un posto dove riusciamo a con più calma a leggere i vostri messaggi, rispondervi, sentirsi. E poi per voi amici frazionati, al grido di fraziollo ma non mollo, lo citava quest'oggi anche l'amica Rosso via SMS, voi frazionati su MySpace vi trovate il bigino della puntata andata in onda, no? Quindi se oggi già ci avete la carogna perché sapete che tra un quarto d'ora entrate in ufficio e staccate la radio e avreste fatto di tutto per poter sentire Back in the USSR in italiano, ve la sentite su MySpace oggi pomeriggio. Ok? Ringrazio anche per l'appendice all'almanacco del giorno, caro Frick, ci arriva via SMS da un amico fiorentino, il booklet gratuito sui locali di Firenze 055. Oggi riporta: 22 febbraio nasce Baden Powell, maledetto fondatore degli Scout. Grazie Ariele, la fai pigliare troppo bene. No, io ricordo, smentisco quello che ho letto perché l'ha scritto un altro. Pane, burro e rock and roll è a favore dello scoutismo. Così in generale, tout court, solo per guadagnare ascolti, niente di più. Senti che bella. Sono stato giù. Senti che tiro, eh. Questa è la mia anima che canta. Yeah. Diteglielo, Black Rose. Come on! questa è l'anima dei Black Rose che se la canta, ma prossimamente due topi, due cavie da esperimento avranno la loro band, il loro gruppo, forse pubblicheranno un disco, forse diventeranno famosi, non lo so. Certo è che noi di Pane, Burro e Rock and Roll saremo lì a scoprire cosa accade. Ehi Rogna, dimmi Frigno, se facciamo la band bisogna decidere cosa facciamo. Sì, è vero, dobbiamo darci dei ruoli. Io faccio il chitarrista cantante, ganga, ganga, ganga, ganga, wow! Forte, forte, forte, allora io cosa posso fare? Quasi quasi faccio il batterista, così spacco tutti i tamburi. Fammi sentire Rogna. Yeah, fighissimo. Ratones, tones, spacchiamo tutto. Spacchiamo tutto. Prossimamente Frigo e Rogna fanno la band, il gruppo. Pane, Burro e Rock and Roll ti aiuta a mantenere gengive forti e a proteggere i denti dal tartaro. Pane, Burro e Rock and Roll, la forza delle gengive, la vita dei denti.